sposa crede d'un vasto impero altar prossi dona, ma avanzo nella reggia e fuor che Tamerlano ogni altro incontro. Il greco prince questi in breve noi succederà il monarca. Gran donna illustre, io vengo dal Tamerlan prescelto, gran onor d'accogliermi in sua vece. Ma il mio sposo dov'è? Marnalita aspettò, sai che io non posso. Il Tamerlano ha un altro amore in petto, vuol sul trono la figlia del nemico Toman, ma forse Irene non avrà temer costei rivale. E se lo fosse il mio signor regina, sposo in eguale non mi sembra. Non vi prendete pena, io già rifiuto, se non il Tamerlano, ogni marito. Amici, andiam, già che non m'è concesso viver sicura, a un traditore appresso. Signor, se t'ha lasciate partire, Asteria è già perduta, udite. Ancora ignota, voi siete al Tamerlan, non è dovere espor la maestà di a nuove offese. Fingetevi compagna o messaggera della sprezzata Irene. Pregate, minacciate, il tempo poi dare incontro opportuno e riscoprirsi. Si faccia, e questo è il mezzo per salvare il decoro e non abbandonar la mia ragione. Andiamo dunque, e nella vostra fede di Trebisonda poserò le rene.